rispetto a quando ci siamo sentiti l'ultima volta, le cose sono ovviamente, hanno intrapreso una strada che è quella del miglioramento e soprattutto anche legato al fatto di tutte le azioni che abbiamo messo in campo, che sono anche quelle che vi avevo annunciato nel mese di ottobre. In primo luogo la parte relativa al rilascio dell'autovettura, che come le avevo detto a suo tempo, nel mese di novembre lo abbiamo rilasciato sia lato call center che lato sportello. Perché il problema, magari lo ricordiamo, dottor Giunta, il problema è che in quel periodo gli utenti di Roma, forse qualcuno sta capitando ancora, ricevono delle fatture di acconto che contestano perché magari sono troppo alte. Allora loro dicono: io vi faccio la mia autolettura, vi do la dimostrazione che i consumi che l'azienda presume non sono uguali a quelli effettivi, pertanto la bolletta dovrebbe essere più leggera. Dal 1 novembre tutti i clienti che ricevono delle fatture, avevate promesso in acconto, potranno rilasciare l'autolettura. Quindi il procedimento è partito dal 1 novembre. Il procedimento è partito sia per il call center che per lo sportello. Come si ricorderà, avevo anche dato apertura agli altri canali di contatto che noi abbiamo. Infatti nel mese di dicembre, entro la fine del mese di dicembre, noi rilasceremo anche la possibilità di farlo via web e via IVAR, sempre nel corso del mese di dicembre. Quindi tutto questo permetterà al cliente, nel qualora, come lei ha già citato, che riceva una fattura in acconto, rilasciando l'autolettura, di allineare i suoi consumi e quindi anche ciò che andrà a pagare esattamente con quello che realmente ha consumato. Mm-mm.